Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che è in testa alle classifiche americane, tra un po' anche europee, nella categoria business e imprenditoria. È la storia dell'uomo che sta creando il futuro, Elon Musk. È scritto questo libro da Ashley Vance, che è una giornalista di Bloomberg Business Week, che ha condotto appunto decine di inchieste e ha curato questa biografia in parte non autorizzata, ma poi in parte autorizzata da Musk, che racconta la storia di questo imprenditore. Ecco, parliamo di questo libro con Marco Montemagno. Buonasera Montemagno. Ciao, buonasera a tutti. Montemagno è un imprenditore profeta del web, imprenditore di internet, ha lavorato per lunghi anni in Italia, poi si è trasferito in Gran Bretagna, ma ormai il mondo è globale per chi lavora su internet, ha creato imprese, ha venduto imprese, ne ha create di nuove, sta appunto molto all'interno di questo sistema dell'innovazione, di un'innovazione in cui Elon Musk è un po' un altro profeta, l'uomo che ha creato non solo Tesla, l'automobile elettrica che sta cercando di conquistare i mercati, ma ha creato anche altre società. Un esempio può essere PayPal, che poi anche questa è stata ceduta. Allora, Marco Montemagno, innanzitutto, perché Elon Musk è l'uomo che sta creando il futuro? Secondo me, Gianfranco, il tema è proprio questo, che non penso che sia un profeta, come anch'io non sono un profeta in piccolo, siamo degli imprenditori e quindi lui ha questo aspetto diverso rispetto agli altri imprenditori della Silicon Valley, dove dopo aver fatto PayPal, che tutti conosceranno, no? La piattaforma di pagamento, ad un certo punto poteva fare una scelta molto semplice e dire: con i 150 e passa milioni che ha preso vado a trasferirmi alle Hawaii a prendere il sole o faccio un'altra iniziativa. E lui ha scelto di in contemporanea fare due iniziative: da un lato di andare su Marte, questo è il suo obiettivo ultimo, e dall'altro ha cercato di reinventare il mondo dell'auto elettrica. Poi parallelamente ne ha lanciate molte altre iniziative, ma ne parliamo dopo. E allora secondo me questa è la cosa diversa, cioè si è messo su problemi molto molto complicati, non ha cercato di creare, non so, il social network dei riparatori di automobili, ha detto: no, io vado a prendere due industrie estremamente difficili, estremamente costose, sulle quali peraltro lui non aveva nessun tipo di competenza, e in questo momento ad esempio Tesla ha una valutazione in borsa che è clamorosa, no? E SpaceX ha cominciato a fare tutti i lanci spaziali, quindi devo dire ad oggi più che parlare sta facendo innovazione con i suoi soldi, l'ha fatta, e oltre a quelli che poi sono investimenti esterni, e mettendoci, diciamo, la faccia in prima persona e sporcandosi le mani. Ecco, come scrivi nella prefazione, Elon Musk è una continua ispirazione per tutti gli intraprendenti, per tutti quelli che vogliono realizzare qualcosa che vada oltre, pur nella consapevolezza, come lui più volte ha ripetuto, che fare l'imprenditore non è per tutti, perché è come masticare vetro mentre osservi l'abisso. Ecco, l'immagine è molto efficace, nel senso che è qualcosa che va oltre la razionalità, perché pensare di fare business andando su Marte mi sembra che è una cosa, sì, da profeti forse, non dico di sventura, ma di persone che sono più illuse che non che guardano la realtà con razionalità. Ma diciamo è questa strana dicotomia: da un lato se uno fa l'imprenditore deve essere un pazzo furioso, no? Perché le quantità di problemi, di problematiche che hai sono enormi in continuazione, quindi se vuoi fare una vita tranquilla non fai l'imprenditore, e tutto il mito del lanciare la propria startup come se fosse una bella avventura nel paese delle meraviglie è chiaramente un falso mito, e la verità è che poi devi risolvere problemi molto pratici, concreti, routine molto noiose, devi gestire persone, insomma sono problemi molto pratici quelli di chi fa impresa. E Elon Musk, figura, rimettendosi in un ambiente del genere, immaginatevi quando devi lanciare un razzo nello certo. Spazio che torna indietro, non è uno scherzo, e quindi c'è una parte di grandi problemi. Dall'altro lato devi avere una visione che va contro qualunque logica, perché quando lui è partito ad esempio per l'auto era il momento in cui il mercato dell'automobile era inavvicinabile, e fare un'auto elettrica era ancora più una follia, per cui uno dice: ma chi te lo fa fare, no? Come puoi pensare di lanciare questa iniziativa? Però Elon Musk è uno così, ad oggi c'è Tesla, c'è SpaceX, poi ha lanciato l'idea dell'Hyperloop, che è questa capsula che va a 1200 km all'ora dentro a un tubo e cambia l'idea della mobilità. Ha lanciato questa società che scava tunnel sotto Los Angeles, cioè è, ogni due minuti ne lancia una, però ripeto, non sono solo idee, poi le fa anche, che è la parte incredibile di Elon Musk. Ecco, ma c'è in questa biografia, che è molto estesa, parla anche appunto del carattere della persona, delle sue amicizie, dei suoi, della sua vita anche privata, familiare, ecco, c'è qualcosa che può essere utile per chi vuole fare l'imprenditore? Ecco, magari non si illude di diventare come Elon Musk o come gli altri imprenditori di cui si parla spesso, ma che vuole magari fare la piccola startup. Che cosa c'è in questa biografia che può essere utile a questi giovani che hanno tante idee, tanta passione e che vanno un po' aiutati anche in questo, sotto questo profilo? Sì, il consiglio secondo me più utile è quello paradossalmente opposto, che devi essere veramente sicuro che sia la tua strada fare l'imprenditore, e forse il miglior consiglio è: ma se ne sei proprio sicuro, non farlo. Se uno ti dice non farlo e tu ugualmente, nonostante tutto, senti proprio la necessità di lanciare una tua iniziativa, allora probabilmente fa per te. Però nella maggior parte dei casi, leggendo la biografia di Elon Musk, ti rendi conto che è sangue, sudore e lacrime per anni, per una vita intera. E quindi questo secondo me è uno stimolo che paradossalmente, se tu hai un animo imprenditoriale, lo prendi come un qualche cosa che ti fa venire voglia di lanciare la tua iniziativa, per quanto possa sembrare pazza e furiosa. Se invece non rientri in questa tipologia di carattere, ti conviene lasciar perdere e voglio dire, uno può lavorare e fare dipendente in modo meraviglioso e fare una vita che preferisce. L'importante è sapere esattamente qual è la tua indole e non cercare di imitare uno come Elon Musk, che effettivamente ha anche un quoziente intellettivo fuori dalla norma ed è un personaggio ad oggi mai visto, ecco, nel mondo dell'imprenditoria a livello mondiale. Ecco, indubbiamente questo è vero, però da un punto di vista così pratico, il mondo attuale, il mondo di internet, il mondo della rete, il mondo di queste nuove opportunità, comunque moltiplicano le possibilità per i giovani, non certo forse per fare dei progetti per andare su Marte, ma per fare delle applicazioni che possono risolvere dei problemi a cui nessuno magari pensa e che poi invece possono essere la soluzione. Ecco, adesso ci sono molto più che in passato, cioè fare una startup adesso può costare poco e può avere dei risultati, magari riesce uno su 100, però uno c'è. Assolutamente, assolutamente. È dato, diciamo, questo consenso informato che uno deve firmare quando parte per fare una startup, nel senso filosoficamente parlando, sapere che è qualcosa di veramente difficile e impegnativo, serve pazienza, servono anni. Detto questo, oggi rispetto anche solo a 10 anni fa, no, tu parlavi prima in blogosfere, quando noi siamo partiti, cioè immaginati dopo la bolla di internet del 2000, non c'erano investimenti in Italia, internet era un posto per ragazzini e per hacker, e fare startup era un mestiere da sfigati, quindi questa era la situazione. Oggi invece tu hai investitori in Italia, all'estero, hai le informazioni, cioè tu puoi andare su YouTube e vederti Y Combinator, che è uno degli acceleratori più famosi al mondo, o tutti gli imprenditori, le startup digitali di successo maggiori in circolazione, li puoi sentire descrivere, parlare, insegnare, c'è tanto materiale, è facile connettersi con gli altri, hai un sacco di gruppi e decine di migliaia di startup in Italia, per cui insomma questo chiaramente facilita moltissimo quello che è il lancio di un'iniziativa, ma dall'altro lato la concorrenza è anche sempre più forte. Ecco, questo è vero, hai parlato pure di blogosfere, fondata da te all'inizio degli anni 2000, in questo senso, in questa prospettiva, proprio diciamo, Marco Montemagno come persona, adesso a cosa stai pensando? Anche sulla base dell'ispirazione che ti può averti dato aver approfondito questa biografia di Elon Musk. Guarda, io ho lanciato una mia nuova azienda un mese fa, che si chiama Slash, perché sai, ripeto, un conto è parlare, un conto poi è farle le cose, e nel mio caso quello che è un grande spazio che ho visto è il settore dei professionisti. Quindi in Italia c'è un buco sui servizi che si possono dare ai professionisti per aiutarli a comunicare meglio online, e diciamo sulla base dell'esperienza che ho fatto negli ultimi 3 anni, no, sulla mia pagina Facebook ha quasi 1 milione di fan, chiaramente questo mi ha aiutato a entrare più nel merito e capire quali possono essere le esigenze e i problemi dei professionisti italiani. Per cui in questo caso ho lanciato una startup su quel pubblico. Ecco, forse una lezione di Musk che si impara è individuare un problema molto chiaro, sul quale c'è un mercato disposto a pagare, e il problema deve essere un problema urgente, sul quale il tuo potenziale cliente è disposto a investire non tra 10 anni ma subito. Piccole indicazioni che però poi tornano utili nella vita imprenditoriale di tutti i giorni. Ecco, bisogna affrontare la complessità. Di complessità in Italia ne abbiamo molta, ce la creiamo anche molto spesso da soli. In questo senso le nuove opportunità, le nuove tecnologie, anche quelle che sembrano dare degli spazi magari a degli interessi particolari, pensiamo alle monete virtuali, ecco, sono cose da prendere un po' con le pinze, però non da ghettizzare o da demonizzare. C'è un futuro anche che noi possiamo magari solo intravedere e non prevedere. Ma assolutamente, ci sono mille opportunità. Oggi, se parliamo ad esempio di Bitcoin o di blockchain, no? Se è un esempio a cui ti riferivi, è un settore dove da un lato, come sempre, quando esce qualcosa di nuovo c'è il rischio della bolla e ci saranno persone che perderanno soldi, persone che faranno molti soldi anche senza avere grandi progetti, come è stato all'inizio di internet. Però qui parliamo di architetture nuove, di nuove infrastrutture, quindi l'innovazione poi continua a crescere ed è sempre piena di opportunità, non puoi mai stare fermo, no? Il mio punto di partenza è sempre che oggi molte aziende italiane hanno paura del cambiamento, invece certo, dovrebbero avere il terrore di rimanere uguali. È quello il punto d'Achille, no? O tu ti reinventi di volta in volta o arriva qualcun altro a reinventarti al posto tuo prima o poi. Per concludere possiamo dire che in fondo anche la realtà attuale presenta più soluzioni che problemi, basta saperli trovare. Assolutamente, mille opportunità, devi spostarti nella direzione giusta, e devo dire Elon Musk è un esempio peraltro, per concludere, anche di quest'altro aspetto: non devi per forza essere un professore, un esperto di un determinato argomento per entrare in un certo settore. Elon Musk ha preso l'auto elettrica, i viaggi spaziali, e arrivava dal commercio online, da una piattaforma di pagamento online, e spesso ai settori Airbnb, Uber, fondatori che hanno lanciato aziende in settori che non conoscevano minimamente, e questo quindi è l'esempio di quanto hai una grande opportunità se ti sai dedicare, se certo, hai le competenze, insomma, se riesci poi a applicarle. Le competenze bisogna farsene, ma l'intraprendenza è necessaria, ed Elon Musk in questo lo dimostra. Grazie Marco Montemagno di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del libro di cui ha scritto la prefazione, Elon Musk, l'uomo che sta creando il futuro, Tesla, SpaceX, la sfida per un futuro fantastico, è edito da Oepli, sono 380 pagine per €24,90. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per domenica prossima.